scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un altro appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di una bravissima cantautrice italiana. Il vero nome è Claudia Lagona ed è nata a Caltagirone nel 1987. Inizia a scrivere i primi testi all'età di 11 anni. Nel 2001 si trasferisce a Torino, dove fonda il suo primo gruppo. Dopo i primi tentativi discografici, nel 2011 firma un contratto con l'etichetta discografica indipendente INRI. Il suo singolo d'esordio è Alfonso, brano che diventa uno dei tormentoni dell'estate 2013. Nel 2014 pubblica il suo primo album, Manuale di Struttura. È tra i finalisti della Targa Tenco come miglior album d'esordio e viene premiata dal Medimex nella categoria miglior opera prima. Nel 2015 esce il secondo album, Abbi cura di te. Lei è Levante. È nato in realtà da un consiglio, da una raccomandazione, da un ex insegnante di canto che si accorge che non avevo proprio tutte le rotelle a posto, mi chiama, mi dice: come stai? Sto bene. Insomma, lunga telefonata, saluto, abbi cura di te, Claudia. E quelle parole, in quel momento, con quel tono lì, mi sono sembrate la cosa più bella del mondo, cioè io dovevo avere cura di me. E così nel 2014, durante un tour, il tour di Manuale di Istruzione, ho deciso di scrivere questo disco dove avrei raccontato di cose felici. E anche nelle storie un po' più malinconiche ho deciso di lasciare una traccia di felicità, di serenità, la ricerca della felicità. Qualcuno l'ha già detto prima di me, però insomma, in qualche modo credo di esserci riuscita, perché io adesso sono felice e sono molto orgogliosa di questa raccomandazione, di questo abbi cura di te. Ovunque andrai, abbi cura di te, cura dei tuoi guai. Io ti ricorderò tra i miei desideri e sogni che la notte porta, il giorno non cancella. Per quelli che farei, per quelli che farò, per non stancarmi mai, mai, mai, mai. E chiamami amore, senza tremare, saremo anche banali, ma che nome dare a questo vortice che porto al cuore ancora. Il manuale di istruzione non c'era l'apostrofo, era una distruzione. Per costruire bisogna distruggere. Sì, a volte per costruire bisogna distruggere. O sei fortunato e quindi hai una bella base piatta sulla quale iniziare a mettere mattoncini su mattoncini, oppure a volte se le cose nascono un po' storte le butti giù e poi costruisci. E io così ho fatto, era successo con Manuale di Istruzione, avevo costruito questa sorta di gradini, avevo detto che delle mie macerie avevo fatto dei gradini per salire sempre più in alto. E pian piano sono arrivata anche alla consapevolezza di come raggiungere la felicità. Non che io abbia trovato una religione o un credo, qualsiasi cosa che mi abbia, semplicemente la vita mi ha portato all'esigenza di voler essere serena, felice, E così è successo, ho deciso di essere felice e quella scelta lì mi ha portato ad esserlo, basta. Anche nella tua carriera hai costruito tutto con tenacia e con pazienza, perché a volte, ti cito, bisogna contare fino a 10. Brava! Guarda, in realtà sì, bisogna avere un sacco di pazienza e bisogna essere tanto diplomatici. E alle volte bisogna essere tanto più diplomatici e una parola in meno salva tanti rapporti e la faccia, ogni tanto salva la faccia. Questa canzone l'ho scritta in realtà pensando ai social, perché io credo ci voglia una patente per navigare sui social, in rete, ecco. E a volte ci si dimentica che dall'altra parte dello schermo c'è un cuore e ci sono delle fragilità. E quindi la gente sputa sentenze senza motivarle, dei giudizi assurdi e io un giorno, leggendo qualcosa di poco piacevole, ho detto ok, scriviamo contare fino a 10. Tra le cose che non ho, tra le cose che vorrei, c'è la forza di ignorarti senza scivolare mai. L'importanza che non hai, quella che non ti darò, per restare salda e dimostrarti che so contare fino a 10. Parlato di social, tu racconti tanto su Instagram anche sì. Cose tue, la tua storia d'amore con molta naturalezza. Ma allora partiamo dal fatto che io sono un'esteta, che mi piace, sono innamorata del bello, poi chiaramente il bello è soggettivo, però il mio bello, io sono innamorata del mio bello, di quello che penso che sia bello, e quindi tento di immortalarlo con queste piccole immagini su Instagram. E diciamo che quel social lì completa la mia parte narcisistica, si dice? Esiste. Sì, lo faccio con piacere. Poi c'è Facebook, che uso veramente come un diario, no? Per cui racconto, ci sono questi poemoni lunghissimi. A volte mi chiedo se la gente ha veramente la pazienza di arrivare fino al punto finale, però sono molto... Sono un libro aperto, in tutto e per tutto, quindi anche sui social non mi pongo dei filtri. Prendi tutto quello che ho, che non mi importa, un po' alla volta, fai la scorta e sarò pronta ad ogni impronta che poi mi lascerai. Puoi starmi a sentire, avrai poche cose da dire. Sei stato mio e mai mio sarai tra questa gente. Tutto il bello, tutto il buono porto via nel mentre. Caro amore, ciao per sempre. Il tuo pubblico, io vedo tanti cuoricini, tanti like. Il tuo pubblico è riuscito a seguire la tua carriera, che sta tra il mainstream di alcune canzoni di grande successo e invece un'impronta molto indipendente. Sì, è strano, perché io, sì, devo dire, sono un ibrido. Oggi sono forse uno dei pochi, nel senso che arrivo alla radio, arrivo nelle radio nazionali, non tutte, e al contempo continuo a fare un percorso molto alternativo rispetto a quello che sta succedendo in Italia e anche nel mondo, no? I talent show e tutto il resto. E avevo paura che questa cosa confondesse un po', perché a volte siamo un po' estremi nel giudicare, quindi o bianco o nero. Invece sono riuscita a crearmi una mia piccola strada, che è la terra di mezzo, in cui si può essere pop continuando a fare la vecchia gavetta. I rapporti con la tua famiglia sono sempre molto stretti. E hai fatto cantare tua mamma? Bellissimo. Lo dico spesso, questo è una delle cose, questa è una delle cose più preziose che io abbia mai fatto nella mia vita. Far cantare mia mamma in un brano che parla di lei, che parla di questa ragazza che si cala dalla finestra del primo piano con queste lenzuola tutte annodate e raggiunge l'uomo della sua vita finché morte non li separi, finché morte non li ha separati. E quindi sì, la mia famiglia è tutto, è tanto, e io non riuscirei a non parlarne, perché sono molto legata. Poi forse credo questa cosa della morte precoce di mio padre, dell'essere rimasta orfana a 9 anni, è un chiodo fisso, ma è anche, oltre ad essere un chiodo fisso, Come ossessione, lo riconosco a volte, è anche la cosa, l'appiglio più bello e più grande che io possa avere. Periodo, sei stata in America, che cosa ti sei portata a casa dentro come bagaglio di tutte queste esperienze? Mi sono portata a casa il fatto che siamo dei moscerini, siamo dei moscerini, lo sapevo già, ma ho toccato con mano un livello musicale pazzesco. L'America è vasta, è una popolazione vastissima, e in questa sua grandezza ha tanti geni musicali, e io sono andata a toccare con mano questa realtà ed è stato bellissimo. E quindi non si deve smettere mai di crescere, di imparare, bisogna essere sempre umili, testa bassa, lavorare ed essere, e sicuramente fare quello che ci piace, quindi essere felice e aver cura di sé. E aver cura di sé. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. Con noi c'era Levante. Il prossimo appuntamento domani alla stessa ora.